kalian mulana peito. Arende bongi doa uhasian, nabor hat pergini namulak manokot nai. Si mata di pinggang muda, marta ono. Leas Rojas.